all'eros. Preghiamo ora. Liberaci dall'eros. Perché io e tu ci amiamo da sempre. E per noia, per creatività di Dio, con entusiasmo giochiamo nel non ricordo. Oh, mio caro tutto, nous pouvons...